boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati e chiedo asilo. Non no, ce la posso fare. Non si può. Non c'è, è venerdì, drag. È venerdì, drag. Quindi ormai sono il giovedì. È domenica. Sono la mattina della domenica, a mezzogiorno. Ah, beh, allora sono in quella bello, condizione, sì, lì, nel allora, letto, immagino, un po' con i giornali. Puoi anche stare a capito? Ti porto appena un caffè. Sveglio, c'è Tito che insomma mi saltella sul letto e mi lecca la faccia. Vuole uscire, povero Tito, la domenica mattina, dai, portalo sono fuori. In quello stato mentale. Giornale? No, il giornale me l'ha già portato mia figlia. Ah, sì, nel letto, un caffè anche. Poi c'è Tito nel letto e io sono in quella condizione lì adesso. Va bene. Dobbiamo parlare di una cosa seria, che è il mondo gamificato, che è il prossimo mondo che ci aspetta. Gamificato, gamificato, non so come si gay dice. Dei gay. No, deriva dalla parola game. Game, quindi l'inglese gamification significa semplicemente che si usano dei videogame per fare in realtà altro. Insomma, questa è una cosa molto logica. Se uno videogioca, gioca. Non è vero, da oggi se uno videogioca può anche formarsi professionalmente, perché ci sono corsi di formazione professionale che si usano esattamente come un videogame. E poi ci sono applicazioni in tutti i campi, dall'allenamento per sport estremi all'istruzione elementare, le scuole elementari. L'istruzione elementare. Sì, videogiochi al posto dei libri o al posto delle lezioni, dei compiti. Ma io sono nato nell'epoca sbagliata. Io avrei imparato tutto quello che ho imparato sui libri giocando a un videogame. Drago. Pensa che hanno calcolato. Uno spara tutto. Sì, cioè, così. Impari la matematica facendo fuori i nemici. No, vabbè, magari no. Magari sono giochini logici. Quanti dai, nazisti subito. Hai sterminato? No, vabbè, sì, togli però 43, quelli che però erano, togli quelli che erano bravi. Sì, esatto. Quindi senso di colpa. Ma poi no, non funziona. Se tu ammazzi Schindler, la matematica con senso di colpa non funziona. Non funziona. Però pensa che hanno calcolato che ogni settimana nel mondo la gente gioca ai videogame per un totale di 3 miliardi di ore. 3 miliardi. 3 miliardi. È chiaro che viene voglia di sfruttare un po' di quel tempo per un'attività più produttiva del gioco. Vabbè, adesso, per esempio, si fa ginnastica col videogame. Esatto. No? Quello è importante. E molto presto tutti faranno ginnastica davanti al video e non davanti allo specchio. Ecco un'altra branca del mondo gamificato. Appunto, hai detto bene. Il rovescio della medaglia è però il fanatismo di certi sostenitori della gamification. C'è una signora chiamata Jane McGonigal che ha scritto un libro chiamato Reality is Broken, cioè la realtà si è frantumata, e il sottotitolo recita così: perché i giochi ci rendono migliori e come possono cambiare il mondo. Questa signora ha in mente di rivoluzionare, per dire, la modalità di aiuti per l'Africa, perché lei dice che se queste attività di aiuto internazionale venissero trasformate in un grande videogame con i supereroi occidentali che devono riuscire a sfamare e aiutare le povere popolazioni africane, le cose andrebbero molto meglio. E poi suggerisce ai malati in ospedale, anche gravissimi, di pensare alla loro guarigione come un videogame. A quel punto con questo possiamo chiudere. Sì, direi anch'io. Non gamifichiamoci troppo. Chiedo asilo. Oh, babarrum. Babarrum. Chiedo. No, ti chiamano. Ma no, ma no, chiamo te, dai, bambino. Al vapore, bambino al vapore. Dai, basta, per favore. Dico... Dai, no, credimi, guarda che abbiamo cercato delle bellissime filastrocche, abbiamo passato tutta la notte su internet, abbiamo trovato una villa, l'abbiamo comprata, e poi più, abbiamo però, trovato delle bellissime filastrocche. Soprattutto quelle. Per convincere i bambini a mangiare, vediamo se funzionano. Va bene, te ne canto una. Ma questa non è una domanda. No, è un obbligo, quindi sta zitto e ascolta, stai seduto anche che adesso, Bravo. Se da volentieri. Ecco. Allora. Guarda, guarda, un can che scappa, han portato via la pappa, al mio bambino, per portarla al cagnolino. Cagnolin tutto contento, se la mangia in un momento, se la mangia e fa bu bu, e la pappa non c'è più. Ma sei scemo? Come? Era bellissimo. Niente, non funziona. Vediamo, proviamo con questa qui. Questa qui è un po' più lunga. È il giro tondo della verdura. 1, 2, 3, 4. Giro tondo della verdura, cibo di chi è senza paura. Le verdure, le insalate, la lumachina se le mangiate, ricche di sali e di vitamine, fanno vispe le pecorine. Fan contenti i caprettini, la lattuga ed il finocchio fan saltar meglio il leprotto. L'asinello furbo e testardo mangia il cavolo ed il carne. Mangia anche tu tanta verdura. Cresci più sano e senza paura. E ma i finocchi? Sì, non ci sono? Sì che ci sono, il finocchio. Ma se non ci sono è meglio così, eh. Il finocchio fa saltare il leprotto, il lattuga e il finocchio fa saltare bene il leprotto, quindi no. Sei convinto di mangiare i finocchi, no? No, no, e adesso vi la racconto io una bella filastrocca, Siete pronti? Sì. Ma devo recitare? Vabbè. È una filastrocca. È come fosse una base, no? Del freestyling. Bella punk, vai. Addio estate, l'estate se n'è andata. Ma come? La nebbia si è già alzata. La nebbia. Addio sole, sabbia mare, e bei monti da scalare. In città siamo tornati, alla scuola preparati, e noi siamo tutti. E poi è finita. Anche finita, però ma non ho capito, piace. Però voglio dire, l'estate deve ancora cominciare. Cos'è questa filastrocca, scusa? Vabbè, ma io sono uno che quando pensa a una cosa bella, no? Che deve cominciare, e io penso già dopo, e quando finisce. E quindi... Sei grassa, settimanale di allegre cialtronate universitarie a cura della redazione di Chiedo Asilo. Che cioè sei Claudia tu. Carusi, ah, sei grassa. No, ma non lei, lei già si preoccupa. Allora, invece faccio il sound design. Allora, a grande richiesta torna l'obesità infantile nei nostri discorsi, perché sono uscite le nuove cifre sui bambini italiani diramate dall'Istituto Superiore della Sanità. Oh, non vedo l'ora di sentirla, dai, pronti. Eccole. Allora. Il 22,9% dei bimbi italiani tra gli 8 e i 9 anni è sovrappeso. L'11% è obeso. Il 9% dei piccoli non fa mai la prima colazione. Il 30% la fa, ma completamente sbilanciata, assumendo troppi carboidrati e proteine. Il 68% fa una merenda durante la ricreazione decisamente troppo ricca rispetto al fabbisogno da coprire. Il 23% non mangia frutta e verdura. E il 48% consuma quotidianamente bevande gassate e zuccherate. Ecco. Quindi 22,9 più 11 più 9 più 30 più 68 più 23 più 48 non fa 100. No. Fa 205. Esatto. Inoltre l'indagine conferma la tendenza dell'anno precedente, e cioè rileva una forbice notevole tra nord e sud. Sì. Pensate che i bambini della Campania con eccesso di peso sono il 48%, circa la metà, mentre quelli di Bolzano solo il 15%. Riusciamo a trarre qualche conclusione da queste indagini, da queste ricerche? Siamo davanti a una rivelazione clamorosa che sbugiarda tutti i sostenitori della dieta mediterranea. Facci piano, perché poi arrivano... Ma no, Drago, se a Napoli metà dei bimbi sono obesi, a Bolzano invece solo il 15%, sono cifre, Sì. Non sono opinioni, sono cifre, dati alla mano, cioè qua il foglio, dati alla mano. Giusto. 48% contro il 15%, quindi venitemi ancora a dire che l'olio extravergine è meglio del burro, che la pizza è meglio del bratwurst. Ma in questo caso sono differenze culturali, credo, che si fa sentire. Sta di fatto che io da sempre sono un tifoso della cucina del nord Europa, ma ho sempre sentito dire che non c'è niente di meglio della dieta mediterranea. E poi invece escono i risultati ed ecco qua, no? La dieta mediterranea fa ingrassare. Mettiamola così, però. E io sono contento. No, vabbè, ve la meritate la mozzarella di bufala. Ve la meritate! Siamo giunti alla fine di questa settimana di Chiedo Asilo. Prima che ci internino, salutiamo e ringraziamo la bambina Claudia Carusi, il bambino Carmelo Lauricella, il bambino Guido Bertolotti, e un saluto a tutti da parte di K e Drago. Mandateci le vostre mail a posta. Ho sbagliato. Chiedo Asilo è 324.it.